YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, l'ora più bella del sabato del villaggio, quella in cui proprio mi diverto, cioè dopo anche nelle altre due, ma alla questa. Tedesco, a Pagliarini, no, alla Vezzali, no, dopo che l'hai detto a tutti, no, buon no. Ultimo arrivo io, no, et di Bellasio, no, no. Et di Bellasio, et Marta Cagnola. Cagnola, hashtag Radio Tube, l'ora no, più bella dopo no. Che l'hai detto a tutti. Lo dico solo a te. Allora, invece le mie due ore più belle del sabato sono quelle che precedono Radio Tube, quelle del sabato del villaggio. Ah, vabbè, che par condicio, esatto. Come si fa? Non so fischiare, non so, figurati se sta so fingendo mimare. Di mimare un sì, malissimo, malissimo un violino. Daniele, sì. Partiamo, ma so che vogliamo partire parlando allora, di esteri, cose un'apertura molto spericolata, cose allora, serissime. Devi sapere che questa settimana sono successe parecchie cose serie, molto poco belle, alcune molto drammatiche. Il Parlamento inglese a un certo punto ha dovuto decidere se avere un ruolo più attivo della Gran Bretagna nel confronto con l'ISIS, soprattutto in Siria. Quindi noi eravamo rimasti nella scorsa puntata di RadioTube che ci chiedevamo cosa volesse fare l'Italia, cosa volesse fare Anonymous addirittura. Adesso parliamo invece. Quindi Cameron ha dovuto far votare una mozione in Parlamento. Il partito laburista, cioè l'opposizione di sinistra, si è diviso perché il premier molto pacifista, il leader del partito laburista Jeremy Corbyn, molto pacifista, ha detto che avrebbe votato no, ma gran parte del partito voleva votare sì. Il partito si è diviso e hanno lasciato libertà di coscienza. Il problema è che forse Corbyn non aveva considerato che il suo ministro degli esteri ombra tale tu, Hillary Benn, con una o due L? Con una L sola. Ecco, infatti, perché è maschile, con una sì, L, figlio del più noto Benn, ha fatto un discorso pazzesco che mostriamo alla radio. Allora ascoltiamo, anzi mostriamo un estratto dal discorso di Hillary Benn. Socialists and trade unionists and others joined the International Brigade in the 1930s to fight against Franco. It's why this entire house stood up against Hitler and Mussolini. Yeah, yeah. It is why our party has always stood up against the denial of human rights and for justice. And my view, Mr. Speaker, is that we must now confront this evil. It is now time for us to do our bit in Syria. And that is why I ask my colleagues to vote for this motion tonight. Beh, è una tu tradurresti cosa bella benissimo, da sentire, ma no, si è capito è benissimo. Sì, si è capito e sono capiti anche perfettamente i riferimenti storici. Fascist, capito? Si è riferito a Franco, Spagna, Franco, si è riferito poi a Mussolini, a Hitler. Insomma, degli... Per definire l'ISIS. Quindi, diciamo, questo discorso resterà nel dibattito, perché ovviamente è molto discussa la questione. In Inghilterra, forse dal punto di vista dei sondaggi, non è detto che questa mozione parlamentare rispecchi la maggioranza dell'opinione pubblica, il sentimento della maggioranza dell'opinione pubblica. Però a maggior ragione un discorso di questo tipo è stato coraggioso, perché fatto in Parlamento. Poi con quei riti, ci sottolineava prima Christian Goldoni, fantastici, del commento, del questa camera si è, come dire, si è erta di fede, si dice? Sì, credo sembra di sì, bene. Si è erta. Dopo controlliamo, sì, sì, dopo. Siamo più forti sull'inglese. Ma non per far capire da che parte sto, ti vorrei invece far sentire, conduco, non so se ti sei accorto. Io sono, guarda, sono... Ti vorrei far sentire invece Corbyn, ho l'altro. Ho gli occhi al cuoricino, sì, per questa tua conduzione. Cattiva. Già dopo dobbiamo ascoltare un cattivo nei miei confronti, ti ci metti pure tu, arriva Facci, lo dico, l'ora, arriva Facci, amici l'ora. E nemici, arriva Facci, va bene. Dicevo, non per far capire da che parte sto quella di Benn come discorso, ti farei sentire invece una gaffe, si può dire, che ha fatto Corbyn, cioè il leader del partito laburista. Mostriamolo alla radio, vai. During more than a year of bombing, ISIL has expanded and lost territory. ISIL gains included the Iraqi city of Ramadi and the Syrian city of Palermo. The claim that the superior British missiles will make the difference is actually quite hard to credit. When the US and other states... The Syrian city of Palermo. Palermo! Ha detto che Palermo è Siria o Iraki? Non ho capito bene a cosa si riferiva. Comunque, insomma, non è né là né lì, per fortuna, di Palermo. E quindi Corbyn. La conosco in Sicilia, casomai la conosco in Argentina, ma da quelle parti... In Argentina? Sì, ah sì, come sì, cacciatore. Meno male che ha un bravissimo Shadow Minister. Sto anche imparando a fare questo gesto che gli ascoltatori stanno perfettamente vedendo alla questo radio. Gesto con la mano che va verso destra e che va a chiudere sfumare l'audio. Quello sfumare è il l'audio. Gesto il cari gesto ascoltatori avete visto il gesto con radio. Cui Daniele Bellasio sta cerca disperatamente di far capire alla povera Roberta Frisani in regia come sfumare gli audio, che è abituatissima ai miei difetti e quindi li apprezza. Allora, correzioni. Allora, sì. Non è in Siria o Iraq, già mi sono dimenticata, Palermo, ma non è l'unica correzione da fare, sì. Perché anche Pier Ferdinando Casini si è messo a fare delle correzioni. Si è alzato in piedi a Sky TG24 e ha fatto una correzione. Pier Ferdinando Casini. Sentiamo cosa ha fatto, mostriamo cosa ha fatto Pier Ferdinando Casini. Ecco qui, non è un colpo di scena. La cartina è ineccepibile. Perfetto. Ma la cartina non prende in considerazione anche altre ipotesi che sì, ci sono. Abbiamo... Cioè, qui è finalizzata alla Turchia e alla parte di Aleppo, ma probabilmente c'è un transito diretto che va verso Damasco. Perché di questo petrolio si forniscono. Cioè, ma il povero Milo D'Agostino che ha visto salzava. Si è detto che è ineccepibile, va bene. Sì, no, ma poi a un certo punto ha detto colpo di scena, perché ha visto che questo parla salzava di cartine. Improvvisamente dice: ma che cosa fa? No, però la cartina non è. Beh, infatti però, è stato bravo. Ho scoperto che si può fare anche all'ingiù il gesto, questo dello sfumare l'audio. Ma non perché so, hai sfumato così? Chiediamo agli ascoltatori se ti piace di più il gesto che fa così. Verso di qua o il gesto o che fa così verso che li avete visti perfettamente. Mamma mia, cosa di che non cosa mi parliamo tocca oggi? Fare. Allora parliamo dopo abbiamo un sacco di belli uomini in questa puntata di è Radio vero, YouTube è quindi vero. Rimanete solo in regia, con solo in regia belle donne, rimanete con noi perché appunto avremo un sacco di belli uomini. Allora parliamo di Monte Bianco con Filippo Facci e sì, decidiamo se Monte Bianco fa bene alla montagna. Monte Bianco come trasmissione, non il monte, perché quello fa bene e alla poi montagna, no, poi oppure no, lasciamo... ci facciamo raccontare le paure. L'altro poi, ospite sorpresa vediamo. L'altro ospite chiamo a raccolta tutti i fan di un certo mondo di attori mi guardi perché non vuoi lasciamo la suspense e soprattutto guarda l'orologio. Traffico, è l'ora del traffico, dai. Traffico. A tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Radio Tube. Daniele, la scorsa settimana abbiamo dopo fatto un appello. Sì, all'inizio della puntata, sì, non dopo il traffico, sì, ho fatto un appello perché Filippo Facci, sì, editorialista di Libero, di un sacco di altre cose, venisse, accettasse il nostro invito a raccontarci un po' di Monte Bianco. Iperventilo. Ecco. Iperventilo di più. Andando su abbiamo fatto quelle piccole sostine necessarie per riprendere aria e fiato. E già lì era la morte. Momento della verità, abbiamo Filippo Facci al telefono. Buonasera Filippo Facci. Buonasera, sono ce Filippo Facci, annoiatissimo da questa brillantezza falsa di Daniele Bellasio. Ma infatti sono 3 anni che mi alleno per essere sempre più falso. Ma c'è questo rapporto punto, così un po'... No, non mi parla, semplicemente non avete ci litigato? Parliamo. Abbiamo litigato anni fa e non ci parliamo. Questa è la seconda volta che... Alcuni anni fa mi offese, in questa vita non sarà perdonato, basta, fine. Poi, dopodiché io sono qua al telefono con voi perché dall'altra parte, benché particolare, c'è pur sempre una donna. Dico ecco, particolare perché è una donna che riesce a convivere in qualche maniera professionale con Daniele Bellasio, è comunque un'ora alla settimana. Interessante. Lo so, guarda, è vero, sono un caso un po' particolare. Visto che sei così montanara, Marta, mi prendi in giro, Daniele, perché sono io... Sono stato in montagna anche oggi. Sei straordinario, Filippo. Voglio sapere il tuo rapporto con la montagna, prima di questo Monte Bianco, che se qualche ascoltatore non l'avesse visto, vi siete sfidati a scalare poco a poco il Monte Bianco tra squadre È lunedì la finale, personaggi noti in tanti campi abbinati. Vabbè, lo spiego io che voi avete difficoltà di comunicazione. Hai ragione, Filippo. Allora, dunque, io ho 48 anni e da ragazzino andavo in montagna, ma non tecnicamente, non coi moschettoni, le corde, queste robe qua. Però, insomma, andavo in montagna e ho sognato per tutta la vita l'alpinismo, insomma, questo mondo favoloso che non è uno sport, però è anche uno sport che riduce ai minimi termini, insomma, gli istinti di sopravvivenza con i quali misurarsi. Bene. Nel periodo dell'aprile-maggio scorso, periodo durante il quale peraltro io passavo le serate a vedermi DVD sulla montagna, leggevo libri di per caso, veramente patito, e comunque ogni tanto in montagna ci andavo, mi chiamano questi e mi dicono: vuoi fare un mese in montagna a contatto stretto con una guida, dormendo in un campo base senza elettricità, senza telefoni, senza niente, lavandoti in un torrente e facendo gare di resistenza distruttiva con il premio finale di arrivare in cima al Monte Bianco? Io pensavo fosse uno scherzo. E poi di fronte però una domanda del genere in tanti avrebbero detto: ma certo che no. Tu invece? Io sono a metà tra un megalomane e un Superman nascosto, insomma, come ben sa Bellasio, insomma, ho il mito dell'eroe ottocentesco che è trasportato, insomma, in questa epoca, è patetico, a meno che mi capiti un'occasione del genere. Morale, ci sono andato, è da 4 puntate che resisto e riesco a far fuori tutti quanti, perché comunque durante questa è stata registrata in luglio, chiariamo per gli ascoltatori, quindi io so già come è andata a finire, ovviamente. E comunque non è questo il punto, perché per questo basta dire: guardatevi la puntata lunedì, che tra l'altro io sono in crisi perché c'è anche la prima della scala e non so cosa fare, e perché dovrei andarci in teoria. Ma tu tanto tu puoi, sai come va a finire, puoi andare. So come va a finire anche Giovanna d'Arco. Vabbè. Anche Giovanna d'Arco, però. Ecco, sì, voglio dire, sono comunque due vette. Sì. Allora, bella questa. Allora, sembri me. Sì, no, infatti. Allora, insomma, cosa voglio dire? Che la cosa eclatante da dire nei pochi minuti che rimangono a mia disposizione è che io, da quando alla fine di luglio ho fatto sta roba, qua faccio un appello, cari ascoltatori, spero che capiti anche a voi, io sono impazzito, non ho più smesso. Cioè, se incontro una donna, una bellissima donna, fantastica, o che cerca di beccarmi, e ormai solo via Facebook, dove le foto si possono ritoccare, eccetera, e mi dice: ah, di qua, vediamoci, io le dico sì. Ti porto al rifugio, dove, cioè, capito? Cioè, un'altra, non so, ti porto al bar, ti porto, usciamo una sera, no, io ti porto a fare una ferrata, cosa che tra l'altro l'altra settimana mi è capitata persino con un altro vostro conduttore, che è Cruciani, esatto. Non si può svelare questa cosa. No, si può svelare. Anche oggi ho ricevuto una chiamata di una persona di quelle che quando sa una cosa lei la sa a mezzo mondo, e mi ha chiesto: ma è vero che tu e Cruciani andate a scalare tutti i giorni? Hai mangiato il coniglio per caso? No, vabbè. Ti ha fatto mangiare il coniglio? No. È vero che 2 settimane fa io e Cruciani siamo andati a fare una ferrata perché lui voleva provare, e però è successo una sola volta, perché per qualche ragione dopo quella volta non l'ho mai più sentito. Perché però... si è spaventato, perché lui è abituato a correre in piano. Una domanda la posso fare? Allora, anche devi sapere, Filippo, sai che Daniele, perché aveva un po' l'ansia da prestazione per questa cosa. No, in verità volevo fare un gioco, avevo molta ansia. Tutta una serie di appunti con tutte le frasi che hai il faccino, cioè il vigino di Facci. Me l'ha mandato per via foto. Allora lui ha detto delle frasi. Avevo detto, guarda, devi dimostrarmi di aver studiato, perché sennò io non, cioè, insomma, dovevo fargli pagare un po' pegno, no? Giusto. Ecco, e lui mi ha mandato la foto con gli appunti dove, tramite dei traduttori, sono riuscito a capire, insomma, Champollion in persona, visto o si era fatto raccontare o no, allora l'ho vista, no, l'ho vista, e volevo fare anche un gioco che ho anche semi pianto quando lui crolla, siccome poi lui dice spesso sta roba, io sono il più vecchio, sono vecchio, la mia età non è... Beh, in effetti il finale è commovente, diciamo, lui alla fine lui che batte la gnocca di 23 anni, bellissima, atletica, stupenda, è una roba, è una goduria, però l'antipaticissima ma bellissima Diane ha detto anche una cosa molto vera, secondo me. Vai con la citazione. Allora, no, vado con tre citazioni, due di Facci e una di Diane. Ok, allora il momento, ma questi sono scemi, chi l'ha inventato secondo te, Marta? Facci o Diane? Filippo. Bravo. Sì, è un momento che ti viene lì quando fai ste prove e a un certo punto tu dici: ma che cazzo mi stanno facendo fare questi? È il momento, ma questi sono scemi. Perfetto. Nel caso ci sono due frasi che sono proprio Facci puro. Uno è: quando io ho i coglioni girati se ne accorge tutta la catena montuosa. Questa bellissima. È solo Facci, io ne sto. Sì, ma non è prepotente come dire quando io... Era perché stavano chiedendo per quale ragione l'ultima notte prima della sfida io mi fossi imboscato nella mia tenda mentre fuori c'era meno 10 e nevicava e pioveva insieme. E non mi mischiavo con gli altri. Io ho detto: quando uno ha i coglioni girati è meglio che non si mescola, perché inquina il buon umore degli altri, e quando io ho i coglioni girati se ne accorge l'intera catena montuosa. È diverso. Poi c'è una gag bellissima con la guida, e la guida gli dice: sei mica matto? E lui gli risponde: sì, invece. Che è vero, la guida non lo sa, ma è vero. Però chiudiamo con Diane, che a un certo punto dice una frase bellissima, che secondo me condivide anche Filippo. Sentiamo. Dopo che vivi le montagne, sei pronto a tutto. È bella, no? Ma diciamo che nel caso di Diane, poi ora manca il tempo di entrare nei dettagli, a me è sembrata pronta a tutto anche senza le montagne. Povera. Per il resto, sì, la cosa del matto, sì, confermo tutto, cioè, perché io gli avevo detto alla guida che per un lungo nevaio ripidissimo, che in TV non si vede quanto era ripido, ma era ripidissimo, io volevo scendere col sedere, e gli avevo detto anche a lui: scendi. No, l'hai fatto, ti sei buttato. Io ho fatto, lui no, perché era poco professionale, però io se ho vinto quella gara è stato anche grazie a quella cosa che serviva a vincere. Sì, però io quando ti ho visto appeso in quel modo mi sono spaventata tantissimo. No, la paura, Filippo, la paura, raccontaci qualcosa sulla paura, perché obiettivamente la montagna vista da fuori fa paura. La paura, ecco, dico una cosa che presumo sia l'ultima e purtroppo è antieroica, però vabbè, questo dimostra che non sono un vero narciso. Allora, la prima prova del primo giorno, quando tutti eravamo ancora un pochino, insomma, dubbiosi e disorientati, consisteva nel calarsi da 70 metri in uno strapiombo con una cosiddetta discesa in corda doppia, con sopra il tizio, cioè la guida, che appunto ci calava, e noi, è quella cosa per cui si vede l'alpinista che rimbalza sulla parete, boing boing, con i due piedi, no? Ce l'avete presente? Certo, ecco, certo. 70 metri è tantissimo, e su uno strapiombo è tantissimo. Allora, io ero arrivato lì da 3 giorni, e non so, magari succede anche a qualche ascoltatore, che di avere insomma, come dire, dei piccoli modesti blocchi intestinali quando si fanno dei viaggi. Ecco, diciamo che io era 3 giorni che non... Abbiamo capito, che era un po' timido. Ecco, la cosa, diciamo, è in aperto contrasto con l'impulso primario e fisiologico che può capitare guardando giù da 70 metri in un posto dove poi ti dicono che devi calarti. Allora, questa antinomia intestinale credo sia stato forse la prova più dura di Monte Bianco. Oh. Beh, e sull'antinomia intestinale, l'antinomia. E chi l'ha capita l'ha capita. Quindi, e la chi paura è liberatoria. Diciamo. Filippo Facci, grazie Filippo, ciao. Di essere stato con noi, a presto. Ciao, ti mandiamo Cruciani per la ferrata. Noi ciao. Ci ritroviamo tra poco. L'ora, ciao. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco, non per la ferrata, pubblicità. Ma perché abbiamo ancora mezz'ora di Radio Tube. Montagna, io vado. Ah, beh, poi con Facci. Te l'ho detto, però fatti portare da Facci. Mi scaraventa giù. Scaraventa giù, ci ritroviamo tra poco. YouTube. E ritorniamo insieme dopo una breve pausa. Abbiamo parlato di televisione, abbiamo parlato, tra l'altro, beh, sai, hai fatto un bel confronto serrato, mi è piaciuto molto, hai tenuto alto tanto l'onore. Adesso parliamo di una trasmissione super ospite. Parliamo di una trasmissione la cui prima puntata è andata in onda sabato scorso. Io mi sono divertita assai a guardarla e me la guarderò anche questa sera. Lanciare un video, lo vedo. Sì, io mostrerei alla radio qualche istante di quello che è successo all'inizio di questa trasmissione. Hanno deciso di mettermi in questa scatola e farmi girare il mondo. Potrei capitare durante una grande competizione sportiva. Potrei ritrovarmi dentro un carcere oppure in mezzo al deserto. O in un parco giochi dietro casa mia. Io non so mai dove mi spediranno, non so chi incontrerò, non so cosa farò e come reagirò. Oramai sono in ballo e non posso più tirarmi indietro. Sono in ballo e non posso più tirarmi indietro. Avete riconosciuto la voce di questo grandissimo personaggio che è stato messo in una scatola in the box. Teo in the box. Buonasera Teo Teocoli. Buonasera. Avevo una voce un po' pentita alla fine, come se fossi stato incastrato in qualcosa dalla quale poi non riesco a uscire. No, invece poi sei uscito dalla scatola. Sì, non è che vivo nella scatola. Volevo ringraziarvi di questo appuntamento radiofonico. Volevo dirvi che questa sera ci sarà una nuova puntata dove ci addentreremo, ci introdurremo, entreremo nel mondo dei nuovi melodici napoletani. No, dove che meraviglia! Anch'io, dove mi permetterò di fare una serenata richiesta e con i grandi come Fiorellino, questi cantanti che lavorano moltissimo nella loro Napoli e dintorni, facendo di tutto, battesimi, compleanni, cresime, sposalizi, serenate, e quindi è un mondo che va scoperto, diciamo così. Verissimo, sono d'accordo. Teo, com'è stata questa esperienza televisiva? Perché non è, cioè, quando uno prepara una trasmissione dice vabbè, ho lo studio, gli autori sono lì, invece tu non sapevi nulla, cioè tu sei stato catapultato in realtà da scoprire mano a mano. Cos'è stato per te proprio trovarti di fronte alla sorpresa, all'imprevisto? Immagino che proprio come uomo sia una bella sfida dire ho a che fare al di là della televisione e del format con il concetto di sorpresa, di inatteso, di scoperta. Sì, in pratica sei ripreso ma sei solo con te stesso, perché io ho girato a vuoto per parecchie ore il primo giorno, ho agganciato qualcuno, mi rispondevano molto gentilmente, ma non trovavo una chiave precisa per iniziare un'avventura su quella nave, finché non ho trovato questo Sandy, questo gigante buono, che ha cominciato a accompagnarmi, e da lì sono andato in tutti i posti, anche quelli che magari non destano molta curiosità. Comunque mi sono difeso cantando, andando nei vari locali, qualcuno mi conosceva. Guidando la nave. So Mr. Teo. Yeah. How are you doing here? Fine. I am rotta always dritto. Eh? Dritto? What's dritto? Dritto. Straight? Straight. Dritto, dritto. Dritto. Oh? Dritto dove si arriva? Where? Vuoi parlare russo? Ah, ok. So where are we going if you go straight? America. America. Yes, we are heading west. Is it possible to speak in Napolitan with your... Senta una cosa, ma andare in America quanto ci vuole? Probabilmente una settimana. What are you saying? What are you talking about? The slang, Napolitano slang. I know you Napolitano language, okay. Lì, guidando la nave, è stata la prova, la cartina di tornasole della genuinità, perché sulla tua faccia c'era un po' lo stupore, il racconto di una cosa che poi tutti noi vorremmo fare. Sì, ma ti dico, la plancia di comando era grande come Piazza del Popolo, è enorme, e tutti i sottufficiali erano lì vicino al centro che controllano più che altro, e poi davanti c'era il computer con questo manubrio proprio da automobile, no? E allora io mi sono avvicinato, doveva arrivare il capitano, ho detto ma siediti pure, sta arrivando, e ho dovuto mettere i due piedi dentro due buche profonde mezzo metro, E io ho chiesto come mai, mi hanno detto per la deve essere tutto stabilizzato, deve essere tutto preciso, ho detto vabbè, ma io non è che mi muovo, lei faccia così. Ho detto vabbè, l'ho messo i piedi dentro ed ero perfettamente allineato tutti gli orologi, non so come si chiama, tutti i quadri. E allora è arrivato il capitano che siccome l'avranno imboccato perché non poteva conoscere i norvegesi, ha detto oh, Teo, come stai Teo? Stai bene Teo? Dico molto bene, ma lei mi conosce? No. Così, beh, infatti il segreto è quello che, di non essere riconosciuto. Riconosciuto, e di non essere... assolutamente. E quindi dopo un po' mi dice sterza un poco la manca, come non sa, a destra, ecco, diciamo, parliamo più facile, ma leggermente. Allora io ho mosso leggermente il volante e mi ha detto tu sai che stiamo andando a Barcellona? Ho detto lo so e non lo so. Ecco, perché tu adesso con la tua mossa ci stai portando a Marsiglia. Dico la Madonna. Ma il piede come va? Il piede mi sono guarito. Oh. No, perché la scatola, la scatola sì. È tosta. Ma sì, ma è venuto un dolore al perone perché per la posizione, non so per che cosa, insomma, non mi andava. È stata una sofferenza. Però alla fine ero soddisfatto. Teo, com'è stato per te riaffrontare la TV, i meccanismi televisivi da protagonista? Ma è stato. C'è stata un po' di incertezza, un po' di apprensione, perché io questi 13-14 anni ho girato l'Italia 100 volte facendo spettacoli e trovandomi anche molto bene, perché i teatri erano belli, io sentivo che miglioravo sera per sera con i miei numeri, con tutte le mie carte, mi giocavo tutte le carte, insomma era molto bello. Andare in televisione poi devi... per forza, diciamo, condividere la scena con nuovi tipi di trasmissione, con nuovi autori, insomma, in pratica conoscevo poca gente e soprattutto con molte televisioni che io per adesso non ho accettato, che è quella dei giudici, delle gare, si cucina dappertutto, anche adesso si cucina persino dalla sagramola, pensavo che fosse una cosa solo di grandi panorami, di grandi animali, di grandi sì. Piante, invece anche lì qualcosa si cucina, ma non è una critica, è una constatazione, e quindi quelle sono tutte trasmissioni che io non posso neanche pensare di fare perché non sono il mio genere, inoltre io non cucino né faccio gare di ballo o di canto, potrei farla per quelli della terza età, no. Se la fanno partecipo. sai, ho fatto 70 anni da poco, il tempo di pensare a questi 70 anni che così insomma ti fanno un po' pensare, ne ho già 71. Sempre un bel bagai però, Teo, un bel bagai. Teo, sai che nella pausa, prima di collegarci con te, parlavamo io e Daniele, e a parte il fatto che io raccontavo che sono venuta a vederti a teatro con Mario Lavezzi mi sono sentita male dal ridere. Raccontandolo. Cioè, era molto bello quello spettacolo. Quello spettacolo era bellissimo e io ricordo di essere stata male, ma male fisicamente dal ridere, non ce la facevo più. Tu adesso che desideri hai? Ecco. Ma desideri... Adesso ho un desiderio di entrare in teatro con una commedia napoletana che si intitola Pasqua a casa Caccamo. Oh, il mitico Caccamo, anche lui. Oh, senti. Guarda, sono vent'anni che mi chiedono di Caccamo, se è vivo, cosa fa Caccamo, senta Caccamo. Allora mi sono convinto, era un personaggio che io tenevo, ero un po' geloso di questo personaggio, non volevo divulgarlo in televisione, però ho capito che se alla gente piace ancora quel personaggio, farò questa commedia che appunto si intitola facendo un po' il verso a Natale casa Cupiello, questo è Pasqua a casa Caccamo, dove vince un uovo gigantesco, ma non lo deve sapere nessuno a Napoli, figurati. Questa sera guardiamo allora Teo catapultato tra i neomelodici napoletani, sono molto molto contenta. Ecco, la prossima? La prossima puntata sarò in Spagna, mi troverò con la cassa in una campagna aperta e dopo 5 minuti arriveranno 200 tori. Tra i tori. Sì, perché il l'Andalusia è troppo bella. Siviglia è un paradiso ed è una città allegra dove io mi sono esibito in un flamenco con dei musicisti che di solito sono molto scostanti perché non vogliono, perché sai, quando si fa il flamenco è sempre una parodia, no? Invece con loro mi sono gasato e ho cantato Ha nascido un niño, che è una canzone che ho inventato al momento, e alla fine erano molto contenti, mi hanno detto ma dove l'hai sentita questa canzone? Ho detto no, è mia. Se volete ve l'accenno. Sì, dai, sentiamo com'è. Ha nascido un niño y que me ha dicho que me gusta mucho mi madre y que mi madre me ha dejado con suelo dinero. Olé. Beh, tu non puoi vedere perché siamo alla radio, ma io ho ballato un flamenco nel frattempo. Grandissimo Teo. Va bene, un abbraccio enorme. E allora, stasera Teo in the Box, e poi ti aspettiamo anche a teatro. Un abbraccio a Teo Teocoli, a presto. Ciao. Grande. Daniele, grande. Noi ci ritroviamo tra pochissimo dopo una breve pausa. Io continuo a ballare il flamenco. Traffico o pubblicità? Traffico, a tra meno poco. Male. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Radio Tube. Io quasi impedisco a Franco D'Assisti di fare la rosa purpurea. Voglio rimanere ancora in studio e prolungare Radio Tube per un'altra ora. No, povero, perché è troppo no, bello, ma, dai. Ma no, perché abbiamo non avuto degli ospiti. Già finito, sì, è troppo così. Bello perché oggi ti sei divertito, perché Facci mi ha fatto nero, appunto. Sì, cioè, Facci ti ha fatto nero. Teocoli un po' perché aveva capito che ero intimidito, ha cantato Ha nascido un niño bellissimo. Però, siccome ho iniziato conducendo io, ma finiamo conducendo io. Metto qua, finiamo conducendo io. Allora, io mi metto tranquilla e comoda qua. Mi potete per cortesia portare dei popcorn perché vi dovete tenere per prima. Allora, questa settimana in televisione ci sono state delle liti. Delle liti. Ma dai. Allora, è un po' però effettivamente che non parlavamo di liti in TV. Sì, è vero. Sai che è vero? Sì. Aldo Grasso ha detto che c'è tanta gente triste, soprattutto sì, a Rai ha 3. Detto la TV i volti dolenti di Rai 3. Aldo però Grasso. Non lo so, a me Giannini per esempio non è dolente. Basta con questo fatto che oggi parli solo, ma che è? Non è primavera, no, Marta. Poi Giannini, è Natale. Giannini è sempre un bell'uomo, lo però so, Aldo Grasso ha sempre ragione. Allora, quindi... però non dobbiamo parlare del fatto che a Rai 3 dice Aldo Grasso. No, anche perché questa cosa è successa a Rai 1. Vedi, non ero preparato. A un certo punto, intervistona di Cristina Parodi. Alla vita in diretta. A Teresa. Teresa, no, no? A Giuliana è quindi la Giulia, mi avrebbe fatto nerissimo, altro che preso a calci. E loro lì un po', non è che litigano, perché la Parodi resta molto professionale e tranquilla, però Giuliana De Sio c'ha quell'antic, come si dice, antipaticume che hanno i uomini. Che a noi piace, a noi uomini, che a te piace, perché no, ti piacciono abbastanza gli uomini. Mostriamolo alla radio, l'antipaticume. Sei andata a vivere in una comunità hippie? A voglia, sì, ma ne ho parlato tante volte, sì. Io ho vissuto... A me questo mi incuriosisce moltissimo, perché anch'io, sì, insomma, sono sempre stata molto... No, purtroppo senti, non l'ho io fatta. A te ti vedo tutti in un'altra... Però, ti vedo inquadrata in un'altra maniera. Invece no. Prendevi però, te con le amiche, era un'altra però, cosa. Però quel tipo di esperienza lì mi ha sempre molto incuriosito. Io, Nelio Pietre è stato anche tuo compagno. È stato mio compagno, ormai lo sanno pure le pietre. Ce l'hanno anche perché poi io ripeto sempre le stesse cose nelle interviste, poi mi annoio, ma non perché... Mi sto annoiando per niente. Lo so, ma mi annoio io ogni tanto. No, dai! Allora, io sono assolutamente team Cristina Parodi, non solo per solidarietà, perché anche a me è capitato quella cosa del fate le stesse domande, ma sì? Noi... Con chi? Si può dire? Ma no, mi è capitato spesso. Ah, ok, svicoliamo. No, nel senso che sarebbero tanti nomi da fare. Sì, allora, qual è? Pensai che a me è successa una cosa quasi peggiore. Una volta in un'intervista ho detto: allora, dottor, prego, ingegnere. L'intervista è finita, non sapevo più andare avanti perché intanto aveva ragione, dovevo prepararmi meglio, però... No, io volevo difendere l'adesivo, perché in realtà dice che lei si annoia di se stessa, quindi non è che sta criticando la Parodi per nulla. Poi comunque quel modo di fare un po' così, un po', almeno un'intervista era un po' diversa dal solito, però devo ammettere, professionalmente Cristina Parodi fa quel lunghissimo però, come dire, dico lungo però così non gli è meno. Dico lungo però, vero, mentre penso come... E mantengo la calma, esatto, e cerco di portare a casa la trasmissione. Esatto, esatto. Prossima volta Cristina chiama Bellasio che... E io dico... Che arriva il avvocato. No, cosa dico? Che, no. Che allora invece hanno anche litigato. Questa sì, lite invece è più ancora? Dura. Io non so dove hanno litigato. Zucconi e la Santanchè. Hanno litigato alla 7. Alla 7. Hanno litigato 8 e mezzo. Beh, hanno litigato 8 e mezzo, ma pesantemente. Però Zucconi, secondo me, dice delle cose toste, ma le dice con il suo modo un po' ironico di dirle. La Santanchè come reagisce? Non lo so, secondo allora te? Voglio sentire e ti dico invece io per chi faccio il tifo. Zucconi, Santanchè. Noi abbiamo il diritto, signora, stia buona per un momento, stia buona per un momento, che poi... Oh, è come avere una zanzara dentro un bicchiere. No, no, per favore, Zucconi, finisci. E allora io non voglio estremisti islamisti e non voglio estremisti... Che aspetti, lasci finire, perché sennò se parlate tutti insieme non si capisce. Quando quindi, non c'è niente da dire si fa rumore di fondo. Spero che quelli trucco. Che ci vedono a casa stiano godendo. No, no, no, no, Santanchè tutta la vita. No, perché no, ha detto Daniele. Buona, che a te proprio no, ti fa scattare buona, sì. L'embolo del femminismo televisivo. La violenza proprio. Chiudiamo, avvicinandoci al Natale. Allora, hai appena detto che ti piacciono le donne stronze, sì. Che sei d'accordo con Zucconi. Non ho usato che, proprio questi che, vabbè, termini, lo dico io per te. Antipaticume. Antipaticume, vabbè, insomma, stronze. Comunque dovresti poi essere contenta, perché... Ma, diciamo sei in target, allora. Allora, andiamo avanti. Fingo di non aver sentito e cerco andiamo di recuperare un briciolo però, di spirito. Però, diciamo però, però e andiamo avanti piace questo tu, però, sul però. Social network, sul social network, parlo ormai come Elio. Va moltissimo su il Twitter, ma anche su il Facebook, sì. E su il Instagram e soprattutto su il YouTube. Va molto uno spot tedesco. Sì, che noi ora ascoltiamo tutto e Daniele Bellasio ce lo traduce in simultanea. Va bene, va no, bene. Dai. No, è a Natale lo spot... siamo tutti più buoni ed sì. È uno spot di un'azienda tedesca. Sì. Che praticamente racconta, lo facciamo prima o dopo averlo mostrato? Allora facciamo una cosa, cominciamo a mostrarlo un pezzettino alla radio e lo raccontiamo. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben, wir werden Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten. Allora, cosa succede? Chiarissimo, c'è un nonnino che, guarda, io già ho tutte le lacrimucce a raccontarlo, sì. Perché pranza da solo, cena da solo, ed è Natale, c'è l'albero di Natale, lui è da solo. Sembra, a me ha ricordato il protagonista di Up. Hai presente sì, il nonnino di Up il signor Erickson, qualcosa e allora genere, decise Carl decide di trovare una soluzione abbastanza cinica con quello humor un po' tedesco, manda a tutta la sua famiglia la notizia della sua dipartita. E allora il manager, la donna col tacco 12, sì. Super e inizia le lacrimucce. Guardano la foto nel portafoglio del nonno. Però sembrano anche un po' affascinati dall'idea di ritrovarsi, secondo me c'è quel però sono un po' stronzi, perché voglio dire, allora l'avete lasciato da solo questo povero nonnino. Ecco, però il nonnino è furbo quindi tutti costoro accorrono al funerale, sì. Convinti di dover spartire un'eredità. Cioè, avevano gli occhi, no? C'era il manager che sì, un po' piangeva, però aveva la pupilla a forma di dollaro. Vediamo il rogito lì, la cosa. E invece il nonnino arriva. Piangono tutti mentre entrano in casa, sì. Sono tutti tristi e a un certo punto... Nonnino arriva e festeggiano il Natale. Mi sunchi, avrei come dicono a Vimercate, avrei preparato qua il tacchino. Vabbè, la cacciola. Il coniglio, secondo me aveva il coniglio sicuramente natalizio. E niente, sono tutti contenti che il nonnino non era morto, era vivissimo. Allora, e furbissimo. Molto discussa e molto condivisa di questa campagna del supermercato, della catena direi supermercati tedeschi Edeka. Siamo molto qua. Azzeccata. Devo dire però che sono sicuramente tedeschi, perché gli italiani non so come avrebbero reagito con l'apparire del nonno redivivo. aiemenavano. Cioè, no! Non lo so, Daniele, lasciamo. Secondo me il nonnino italiano l'avrebbe facciamo una cosa. Se non con un cornetto in mano, facendo delle cose che alla radio possiamo fare perché però non si vedono. Allora. E adesso il gesto di fine della trasmissione esiste? Nel manuale del bravo conduttore? No, non c'è il gesto. Tipo possiamo... Voi non avete idea dei gesti che sta facendo Daniele Bellasio. No. Quindi concludo qui la trasmissione, esatto, perché non riesco più a parlare. Però ci risentiamo con Marta. Vi risentite alle 15 sabato prossimo, il sabato del villaggio, le due ore che lei preferisce, quelle che precedono Radio Tube. E poi alle 17. L'ora più bella dalle 17 alle 18 con Radio Tube. Se riesco a smettere di ridere, vi saluto e vi do l'appuntamento a sabato prossimo.